Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova puntata insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e ritroviamo, come ormai capita spesso, Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, di che cosa parliamo oggi? Francesco, io vorrei introdurre un argomento di cui si è discusso in questi giorni, perché sono stati diffusi dei dati da parte della CGA di Mestre, con la quale anche ha avuto modo di collaborare. I dati riguardano l'indebitamento delle famiglie italiane, che è chiaramente un tema molto importante, su cui insomma diciamo che le associazioni sono sempre in prima fila, anche per dare dei consigli alle famiglie e ai cittadini. Allora, facciamo un po' un quadro della situazione che vede le famiglie italiane indebitate in maniera abbastanza forte, ma non in maniera drammatica, come succede per esempio invece negli Stati Uniti. E diciamo che nel 2016, quindi a fine 2016, la CGA rivela appunto per quelle famiglie italiane un indebitamento medio di 20.341 euro, in leggera crescita rispetto al 2015, in crescita dell'1,6%, quindi diciamo che rimaniamo sostanzialmente in linea. Cresce un po' l'indebitamento, però diciamo che per certi aspetti questo può essere un dato anche positivo, soprattutto perché c'è stata una ripresa dei mutui, perché chiaramente il mercato immobiliare, come abbiamo avuto modo di dire anche durante le tue trasmissioni, ha avuto una risvegliata, una mezza risvegliata, per cui adesso è anche aumentato il numero di famiglie insomma che ha chiesto un prestito alla banca per comprarsi una casa. Scusami se ti interrompo, quando si parla di indebitamento appunto vengono in mente i mutui, ma rispetto a una volta forse adesso compriamo anche le cose di piccolo consumo, quindi l'elettrodomestico piuttosto che, e lo si paga a rate, anche perché spesso e volentieri ci sono queste proposte. Andresti a pagare quello che hai comprato allo stesso prezzo, sia che tu lo paghi in contanti o che fai una dilazione a rate, perché sono previsti spesso gli interessi zero. Quindi forse anche questo ha inciso un po' su quella crescita che dicevamo. Sì Francesco, come è noto, il credito al consumo, quindi appunto i prestiti che vengono fatti dalle famiglie, per l'acquisto della televisione, del frigorifero, insomma di quelle che non si riescono a pagare immediatamente, è un nodo sul quale noi cerchiamo di essere molto attenti e cerchiamo di puntare i riflettori. Vado a spiegarmi. Chiaramente l'acquisto della prima casa, della quale ormai sappiamo che ormai l'80% degli italiani sono praticamente proprietari, anche se stanno pagando ancora un mutuo alla banca, diciamo che è una necessità. Non è una necessità molto spesso l'acquisto del mega televisore o anche di altri tipi di elettrodomestici, però noi abbiamo visto come diciamo appunto questi beni voluttuari, alcuni tipo il televisore, non voglio dire che siano tutti voluttuari, perché chiaramente una lavatrice non servono, però il mega televisore per il quale mi indebito rappresenta per noi comunque un elemento di pericolo per la famiglia. L'abbiamo detto spesso, lo risottolineiamo, perché noi riteniamo, come hai sottolineato anche te, che una famiglia non debba assolutamente vivere una vita di rate, perché comincia a diventare, quando ogni mese sai che devi pagare una parte di rata per l'automobile, poi hai il mutuo della casa, poi decidi di comprarti il televisore, quindi ti fai un altro prestito. Ecco, questo riteniamo che sia l'errore più grande, perché si arriva a una forma di sovraindebitamento tale per cui a un certo punto non si riesce più a pagare. Lo vediamo perché come associazione ci confrontiamo spessissimo con persone che hanno acceso dei finanziamenti con varie realtà e a un certo punto non riescono più a pagarli, perché hanno chiesto più prestiti. Quindi ecco, un consiglio che diamo è sempre quello di stare molto attenti al credito al consumo, sostanzialmente limitarsi a un acquisto, e casomai una volta che si è terminato di pagare quello possiamo anche pensare di impegnare il nostro reddito mensile con un'altra rata. Però ecco, veramente un appello che lanciamo con forza è quello di non crearsi una vita a rate, perché a un certo punto non è più sostenibile. E quindi diciamo che dei dati che ci fornisce la CDR rientrano tantissimo i mutui, ma gran parte anche del debito è composto appunto da quello di cui parla di te, quindi dal credito al consumo, dal prestito per comprare appunto beni più, diciamo, più immediati, come può essere, ripeto, il televisore, l'automobile, il frigorifero, la lavatrice. E con il mutui per la prima casa e con il credito al consumo, diciamo che si piazza in prima posizione tra le province venete, in quanto a indebitamento, la provincia padovana, che devo dire tra l'altro è in una posizione molto elevata, cioè è undicesima tra tutte le province d'Italia. Ricordiamo che la prima provincia come indebitamento è Milano, e quindi diciamo che Padova è la prima provincia veneta, ma anche la undicesima provincia italiana come livello di indebitamento familiare, con un debito di 24.616 euro. Subito dopo, al dodicesimo posto in Italia, quindi al secondo in Veneto, si piazza Treviso con 24.387 euro. E Belluno è l'ultima provincia in quanto a livello di indebitamento, infatti le famiglie hanno un indebitamento medio di 17.129 euro, quindi nettamente inferiore rispetto alla prima in classifica in Veneto, che è Padova. Quindi diciamo che la situazione, Francesco, in Italia è pesante, non è drammatica, ripeto, perché drammatica è quella delle tante famiglie, per esempio, americane. Però un occhio di riguardo al pericolo del sovraindebitamento ci deve sempre essere, perché veramente è uno dei problemi più grandi per un bilancio mensile della famiglia, è quello proprio di aver acceso troppi prestiti. Credo che abbiamo fatto un po' di luce e comunque cambiato un po' il modo di fare i nostri acquisti. Se penso a come spendevano i soldi i miei genitori, è tutto un altro modo, effettivamente. Ognuno poi riflette anche con l'esperienza che ha avuto in casa. Grazie a Gianluca Codognato. Ricordo il sito dell'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it. Ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.